Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata 184 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. In questa puntata parleremo di energia e soprattutto di fusione fredda. Cari ascoltatori, questa puntata è una puntata del tutto speciale di Caccia Fotone e dentro questa puntata, come accennato all'inizio, parleremo appunto di fusione fredda. Ne parleremo col dottor Stefano Bagnasco dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma soprattutto membro del CICAP. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stefano, con te parleremo di un esperimento avvenuto qualche giorno fa qui a Bologna, indetto soprattutto dal professor Focardi e dall'ingegner Rossi, e all'interno di questo esperimento si prova a dimostrare quello che già Fleischmann e Pons nel 1989 ipotizzavano come effetto di fusione fredda, insomma energia totalmente pulita. Ne parleremo con te perché tu sei autore di un articolo pubblicato qualche giorno fa sulla rivista del CICAP Query, e dentro questo articolo si prova a fare un'analisi critica di questo lavoro di Focardi e Rossi. Prima di tutto, prima di cominciare con la trasmissione, la domanda che ti devo fare è che cosa si intende per fusione fredda, visto che questo è un termine abbastanza altisonante che in questi giorni molti utenti cercano su Google. La fusione fredda è un ipotetico processo fisico in cui due nuclei di atomi leggeri, cioè formati da pochi protoni e neutroni, si fondono insieme e ne formano uno nuovo più pesante. Alcune di queste reazioni possono essere usate per produrre energia. Il problema è che questo tipo di reazione avviene soltanto in condizioni di temperatura e pressione estremamente elevate, quindi è difficile costruire una macchina a fusione che sia in grado efficientemente di produrre grandi quantità di energia. Sarebbe il santo graal di quanti cercano le nuove forme di energia, perché usi elementi poco costosi come l'idrogeno o in questo caso il nickel, e non hai scorie radioattive, hai dei processi controllabili facilmente gestibili. Il problema appunto è che richiedono elevatissime pressioni e temperature, quindi tutto il mondo, progetti e laboratori, stanno cercando tecniche per fare la fusione nucleare, senza finora un successo sufficiente a tenere una reazione che vada avanti e produca energia più di quanto ne richieda per farla partire. La fusione fredda è un tipo particolare di fusione che avverrebbe in condizioni, diciamo, vicine a quelle della temperatura ambiente, e che è stata annunciata per la prima volta, se non ricordo male, nel 1989, da due chimici che si chiamano Fleischmann e Pons, che sostenevano in una reazione, adesso i dettagli non li ricordo, ma loro usavano, se non ricordo male, del palladio e del deuterio, cioè un isotopo dell'idrogeno e un altro elemento, e a piccole temperature vedevano un'emissione di neutroni che li faceva pensare a una forma di fusione nucleare. Questo naturalmente è quello che loro sostenevano. In realtà poi laboratori e fisici di tutto il mondo si sono buttati a cercare di replicare anche in Italia le scoperte di Fleischmann e Pons, ma da allora non c'è stata più nessuna buona notizia, fino apparentemente a qualche giorno fa, con questo annuncio un po' strano, che poi parliamo tra un attimo, credo. Infatti Stefano, di questo esperimento volevo parlare con te, proprio per questo ti ho chiamato, perché questo esperimento è stato svolto addirittura qui a Bologna, quindi immaginerai che ne hanno parlato praticamente tutti, e tutti i giornali online hanno parlato di questo esperimento, rilasciando fondamentalmente le dichiarazioni di Focardi e Rossi. Un attimo in introduzione, il professor Rodolfo Cardi, un importante professore di fisica del Dipartimento di Fisica di Bologna, mentre Rossi è un ingegnere. E a questa dimostrazione fatta a giornalisti e fisici volevo parlare con te proprio perché voi siete stati i primi a farne una analisi critica. E allora Stefano, a questo punto ti lascio la parola per, come dire, introdurre questo argomento di cui parleremo all'interno di questa puntata speciale di Cacciafotone. Sì, ci sono un paio di aspetti curiosi di tutta questa faccenda. Voglio solo fare una puntualizzazione. Il professor Focardi è un professore emerito dell'Università di Bologna, ma è in pensione, cioè non è più collegato all'Università di Bologna. Lo dico questo perché ho fatto una chiacchierata con il direttore del Dipartimento di Fisica di Bologna, Paolo Capiluppi, proprio pochi giorni dopo questa dimostrazione pubblica, semi-pubblica, che hanno fatto Focardi e Rossi. E lui vuole far notare che il Dipartimento di Fisica e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare non sono direttamente coinvolti né nell'organizzazione dell'esperimento né nelle ricerche che hanno portato a questo. E quindi in pratica loro sono stati invitati a una dimostrazione, un paio di persone del Dipartimento di Fisica hanno dato una mano per la misura delle radiazioni, dell'energia emessa, ma è finita lì. Non hanno potuto fare gli esperimenti e le misure nelle condizioni in cui avrebbero voluto. Il professor Capiluppi mi diceva che loro sarebbero estremamente curiosi di vedere come funziona questo marchingegno, perché in effetti è un marchingegno chiuso, sigillato, è una specie di salsiccione coperto di alluminio. Da un lato entra idrogeno e un po' di elettricità per riscaldarlo leggermente e un tubetto con poche porte dell'acqua, dall'altra estremità quest'acqua esce sotto forma di vapore e quindi il calore prodotto da questa apparecchiatura scalda l'acqua e la trasforma in vapore. Misurando la quantità di acqua vaporizzata è possibile misurare la quantità di energia prodotta. Stefano, scusami ma ti interrompo un attimo, dove è stato pubblicato questo paper a cui fa riferimento questa pseudo dimostrazione? Ecco, questo è uno dei punti curiosi. Magari faccio presente, dico soltanto due cose. Questo lavoro qui non è fatto da un ente di ricerca accademico, ma da privati, cioè questo ingegner Rossi, che è un privato che ha investito soldi suoi per fare questo tipo di ricerca. Lui ha depositato una richiesta di brevetto, di cui di nuovo parliamo tra un secondo, e hanno pubblicato un articolo scientifico, che in realtà articolo scientifico non è una buona descrizione, su una cosa che si chiama il Journal of Nuclear Physics. Ora, in realtà il Journal of Nuclear Physics, nonostante questo titolo che sembri una rivista accademica, era una rivista di fisica russa che da alcuni anni non esiste più. Questi hanno aperto una specie di blog, una pagina web, in cui pubblicano sostanzialmente il lavoro di queste persone e basta, riciclando in qualche modo il nome di questa rivista russa, che sa un po' di puzza, un po' di sotterfugio per farlo passare per una rivista accademica accreditata. Io non so se questo articolo sia stato prima sottoposto a riviste accademiche convenzionali, rifiutato e quindi pubblicato lì, oppure pubblicato direttamente lì senza neanche provarci. In ogni caso non è passato per il normale processo di peer review a cui vengono sottoposti gli articoli scientifici di solito. Quindi non abbiamo nessuna indicazione su che qualcuno abbia dato un'occhiata a questo articolo, qualcuno competente del ramo. Non solo, se devo dire, io ho letto l'articolo, alla fine non è neanche... Non so se l'avrebbe passato una peer review, perché è estremamente generico e vago e non entra in nessun tipo di dettaglio su cosa è stato davvero fatto. Questa completa mancanza di dettaglio si nota anche nella richiesta di brevetto, tant'è che io purtroppo non sono un grande esperto di procedure di brevetti e di diritto di questo genere di cose, però mi pare di capire che un funzionario dell'ufficio brevetti americano, internazionale, a cui è stato sottoposto questo brevetto, abbia dato parere negativo. Proprio perché lui scrive, il meccanismo su cui funzionerebbe questa macchina non fa parte della scienza mainstream, della scienza comunemente accettata, e quindi vorremmo sapere meglio come funziona questa macchina prima di concedere il brevetto, mentre nella domanda di brevetto non c'è scritto praticamente niente, c'è scritto mettiamo della polvere di nickel, ci facciamo passare dentro l'idrogeno e viene fuori energia. Quindi dal punto di vista di come è stato presentato, tutto questo è un po' si pone chiaramente e esplicitamente al di fuori dei processi, dei canoni della scienza comunemente accettata. Ma è anche un po' sospetta, è anche un po' curiosa sta cosa di fare questa conferenza stampa a brevetto non ancora accettato, perché se lui dice io non mi posso rivelare i miei segreti industriali perché non sono ancora coperti da brevetto. E allora aspetta che ti diano il brevetto e poi fai la conferenza stampa in cui puoi soddisfare i fisici. Non inviti i fisici chiedendogli poi di non fare domande su come funziona l'apparecchiatura, come lui ha fatto. Insomma, tutta questa cosa qui è un po', insomma, perlomeno da adito a qualche sospetto. Poi, per carità, magari il marchingegno funziona davvero e questa è nuova fisica di qualche genere. No, tra l'altro, ecco, l'altro aspetto curioso è proprio questo, che se quell'affare funziona, difficilmente è un processo convenzionale come quelli che conosciamo, di fusione nucleare. Dovrebbe essere qualche nuovo fenomeno che non conosciamo ancora. Perché? Perché non solo a quelle temperature quella reazione non dovrebbe poter avvenire, perché i protoni, cioè i nuclei di idrogeno, non hanno abbastanza energia per superare la repulsione elettrostatica e andare a contatto con i nuclei di nickel e formare il nucleo di rame che ci si aspetta. Ma la vera domanda è stata rilevata veramente dell'energia in fuoriuscita? È possibile dimostrare la produzione di energia attraverso questo specie di salsicciotto, questa specie di marchingegno? Energia si è rilevata, nel senso che conoscendo la quantità d'acqua, come dicevo prima, immessa nell'apparecchiatura e misurando la quantità di vapore, la temperatura del vapore in uscita dall'apparecchiatura, questa apparecchiatura produce 12 kW di energia. Ora, che li produca attraverso questa reazione di fusione non è per niente chiaro. Non si sa che cosa c'è dentro quella scatola, potrebbe esserci qualunque cosa, ma uno verrebbe persino addirittura da sospettare, se non volesse dare sempre il beneficio del dubbio. La cosa curiosa, come dicevo, è che non può essere la reazione di fusione nucleare come la conosciamo, perché questo processo, praticamente, da quello che hanno misurato i tecnici e i fisici che erano presenti, non emette radiazioni di nessun tipo. Uno si aspetta diversi tipi di radiazione da quel processo che dovrebbe essere alla base del funzionamento della macchina, e nessun tipo di emissione di questo tipo è stato misurato lì dintorno. Quindi cos'è che fa funzionare quell'apparecchiatura? Non si sa. Senti, questo è il mio parere, poi volevo sapere anche qual è il tuo. Secondo te non è stato inopportuno da parte del professor Focardi fare questa conferenza stampa prima della presentazione del brevetto? Ma probabilmente sì, a questo punto, cioè la conferenza stampa in questo momento, invitare i fisici alla conferenza stampa non è servito a nulla, perché i fisici non si sono tolti le loro curiosità, non hanno potuto capire niente di come funziona l'apparecchiatura e non hanno potuto neanche fare quello che magari avrebbero voluto che venisse fatto, cioè voglio dire che Rossi avrebbe voluto, e cioè che questi dicessero sì, effettivamente è un processo di questo genere, non si sa come funziona quell'apparecchiatura. Ma non lo sappiamo noi o non lo sanno neanche loro? In realtà sembra che non lo sappiano neanche loro, perché a un certo punto entrambi dicono non siamo riusciti a capire, non abbiamo idea di quale sia il processo che fa funzionare questa cosa, eppure funziona, e quindi a noi basta quello. Persino nella domanda di brevetto c'è scritto che loro sono partiti dal presupposto non di dimostrare la reazione nucleare come facevano Fleischmann e Pons, cioè loro dicono i tentativi precedenti erano mirati a costruire un'apparecchiatura che dimostrasse la fusione nucleare, cioè che mettessi in evidenza le radiazioni che sono proprio la segnatura di questo tipo di reazione. A loro questo non interessava e si sono concentrati sulla produzione di energia, ignorando questi altri dettagli. Ora, cosa questo voglia dire? Siccome non lo spiegano, non lo so. Loro stessi ammettono che non capiscono come funziona. Quindi, in morale della favola, loro dichiarano che questo marchingegno produce 12 kW e questi 12 kW verrebbero prodotti attraverso la fusione fredda. La loro ricerca non ha passato il vaglio del peer review, non è stata pubblicata su alcuna rivista, è stata pubblicata solo sul loro blog. I fisici non hanno potuto verificare quello che loro dichiarano avvenga all'interno di questo marchingegno e il brevetto gli è stato rifiutato. Per adesso non è stato accettato il brevetto. Io adesso purtroppo, come dicevo, non sono un esperto di procedure brevettuali, quindi magari quello è un parere preliminare, non ho idea. Però per adesso non sembra che sia stato accettato il brevetto. Tu cosa ne pensi? È difficile da dire. Diciamo che ci sono due aspetti molto curiosi. Un po' è tutta questa procedura di annuncio, che è molto poco, forse una cosa legale si direbbe irrituale. E l'altra è questa radiazione che non si vede, che effettivamente è molto, molto strana. Ci sono alcuni indizi sospetti, diciamo così, ma non saprei neanche dire di cosa potrebbe esserci dietro a questa cosa. Vediamo cosa ne verrà fuori. Senti Stefano, l'ultima domanda che ti voglio fare è cercare un po' di chiarire quali sono gli step che deve passare una ricerca prima di finire dal bancone del ricercatore al bancone del giornalista. Quindi quali sono i passaggi, quali sono le porte che si devono aprire prima di diventare una ricerca scientifica che poi è discussa da tutta la comunità dei tuoi pari, cioè di quelli che capiscono e possono analizzare il tuo lavoro in maniera indipendente? Ma di solito la cosa che si fa è si scrive il paper e si presenta alla redazione di una rivista, la quale lo manda a un certo numero di scienziati, ricercatori, esperti nel campo, che devono valutare non tanto la correttezza dei risultati, quello lo farà poi la comunità scientifica cercando di riprodurre l'esperimento, ma la correttezza formale, il fatto che sia descritta con sufficiente dettaglio la procedura usata, in maniera che poi altre persone possano provare a verificarla. Che siano poi altre cose più formali, tipo che siano effettivamente accreditate le priorità. Se uno trova una cosa che è già stata scoperta da qualcun altro, deve correttamente dire: guardate che l'ha già scoperta l'altro prima, io sto soltanto verificando, per esempio. Oppure se il lavoro di qualcuno si basa sul lavoro di qualcun altro, questa cosa deve essere citata. Ma in questo caso non sarebbe tanto quello il punto, quanto piuttosto che il reviewer dovrebbe verificare che l'articolo sia sufficientemente esauriente e corretto da permettere a altri scienziati di cercare di replicare i risultati ottenuti, cosa che con l'articolo che ho letto io è perfettamente impossibile. Stefano, ammesso e non concesso che si generino davvero 12 kW all'interno di questo strumento, se non si dovessero generare attraverso la fusione, peraltro loro non dichiarano neanche come avviene questa produzione di energia, quindi è plausibile pensare tutto, da che cosa si potrebbero generare? C'è qualche sospetto di frode? Per esempio, dovrebbe essere escluso che sia un'effettiva combustione chimica convenzionale dell'idrogeno immesso, perché la bombola dell'idrogeno è stata pesata prima e dopo l'esperimento e l'idrogeno consumato è troppo poco per essere compatibile con la combustione. Ora, gli stessi esperti che erano presenti dicono che la misura non è stata fatta proprio con la massima precisione e cura, però anche lì credo che un eventuale errore non giustifichi che non si siano accorti di così tanto idrogeno. Dopodiché non lo so, una cosa che non sono riuscito a capire se è stata fatta, che volevo verificare leggendo meglio i paper, ma non ho ancora avuto tempo di farlo, è se effettivamente l'apparecchiatura stessa sia stata pesata prima e dopo l'esperimento. A un certo punto dicono sì che l'avrebbero fatto, però non trovo traccia del risultato di questa pesatura. Stefano, grazie per aver risposto a queste domande, peraltro è un argomento troppo interessante per non trattarlo e volevo trattarlo con qualcuno che ne avesse fatto almeno un'analisi critica, giusto per non parlare di fuffa come si dice in gergo, ma parlando invece di qualche dato, qualche analisi fatta da qualche ricercatore indipendente. L'appuntamento è come al solito alla prossima puntata standard questa volta, quindi da mezz'ora. E l'augurio è il classico: buona scienza a tutti. Grazie Stefano. Grazie mille, ciao Fabio, arrivederci a tutti.